Questo incontro è il secondo incontro di un piccolo ciclo di eventi con focus sulla Libia, diciamo. Abbiamo voluto organizzare questi incontri in collaborazione con Amnesty International, Medici Senza Frontiere, il Forum per cambiare l'ordine delle cose e il Costa Arena che ci ospita, perché sentivamo l'urgenza di parlare di Libia. Tra pochi giorni, tra meno di un mese, ci sarà la possibilità di annullare gli accordi fra Libia e il nostro paese e quindi vedremo cosa succederà. Appunto, l'idea comunque era quella di parlare di Libia in maniera umana, o meglio, mettere l'accento sulle conseguenze umane e umanitarie di questi accordi. Quindi, appunto, abbiamo invitato diversi ospiti che dibatteranno fra di loro. Ci sarà per SS Mediterranee Caterina Ciufegni, che è stata medico di bordo sulla nostra nave, la Ocean Viking, che ci racconterà la sua esperienza a bordo dal punto di vista medico. Quindi, diciamo in poche parole, letteralmente la Libia sulla pelle delle persone, quindi queste persone che vengono soccorse dalla nostra nave, in che stato si trovano, diciamo così. Poi ci sarà Eugenio Alfano, avvocato e coordinatore di Amnesty International, che ci darà una cornice più giuridica, quindi ci spiegherà bene che cos'è il memorandum, quali sono le conseguenze legali e pratiche per le persone. E poi ci sarà Giorgia Girometti, che è responsabile della comunicazione di Medici Senza Frontiere, che si occupa direttamente di Libia e mare, diciamo, di search and rescue, ci parlerà della situazione proprio in Libia, quindi dei centri di detenzione e così via. Il memorandum tra Italia e Libia è attivo ormai da diversi anni, ha già avuto diversi rinnovi. Quali sono gli effetti che ha prodotto? Il memorandum è stato firmato nel 2017 ed è, diciamo, un po' l'incarnazione di spinte politiche anche internazionali per il controllo dei flussi migratori in ingresso. Quindi è, diciamo, l'esito di una strategia che possiamo chiamare di esternalizzazione dei confini, quindi uno spostamento del controllo dei flussi migratori fuori dai nostri confini, in territori esterni, delegando a entità e autorità esterne. Il memorandum in realtà non prevede una creazione di fondi diretto, ma crea, diciamo, una cornice politica per attuare altri tipi di finanziamento e di supporto, quindi supporto economico, supporto tecnico, tecnologico. Ovviamente, solo per citare il supporto, diciamo, più discusso è quello alla Guardia Costiera Libica, che è una entità, potremmo dire, voluta, fortemente voluta dall'Italia, dall'Unione Europea e che di per sé è molto controversa. Ovviamente, oltre alla questione economica, che non riguarda solo la Guardia Costiera Libica, ma anche i centri di detenzione, c'è tutta una questione riguardante le prerogative, i compiti di questa Guardia Costiera Libica, che è stata incaricata sostanzialmente di fare le cosiddette intercettazioni. Quello che fanno è bloccare sostanzialmente le imbarcazioni con persone che stanno cercando di scappare dalla Libia, molto spesso con manovre pericolosissime per le persone a bordo, per riportarle indietro. Dal nostro punto di vista, poi, in quello strettamente marittimo, la Guardia Costiera Libica non ha la preparazione tecnica per svolgere il compito che le ha assegnato, sia dal punto di vista fisico-tecnologico, sia dal punto di vista giuridico, in quanto la Libia non è considerata, non può essere considerata un luogo sicuro. Luogo sicuro è, diciamo, l'esito, dovrebbe essere l'esito per il diritto del mare delle missioni di soccorso. Quindi, sommando poi queste due cose, capiamo come le missioni della Guardia Costiera Libica non possono essere considerate missioni di soccorso, come invece vuole determinare il memorandum, ad esempio. L'incontro, come dicevamo, si intitola La Libia sulla pelle delle persone. Voi che nel vostro lavoro avete incontrato proprio anche le persone che fuggivano da quel paese, insomma, che da lì cominciavano la traversata, come le avete trovate? Sulla loro pelle c'erano i segni di quell'esperienza? Assolutamente, sì. Purtroppo la situazione peggiora di mese in mese, nel senso che ovviamente si trovano segni fisici, anche psicologici, che a prima vista magari non si possono vedere, ma che poi col tempo emergono. I segni fisici più comuni sono sicuramente segni di tortura, tutto ciò che queste persone subiscono nei centri di detenzione, fratture, ferite d'arma da fuoco, bruciature molto spesso, segni proprio di maltrattamenti, di tutte le torture che subiscono, e soprattutto la situazione delle donne, che sono le persone più vulnerabili insieme ai minori, che subiscono cose indicibili e inimmaginabili per noi. Memorandum scade il febbraio prossimo, però per il rinnovo o mancato rinnovo, che è quello che chiedono anche molte organizzazioni della società civile, l'appuntamento è ai primi di novembre. Esatto, il memorandum ha una durata di per sé di 3 anni, quindi il primo rinnovo c'è già stato. Nel 2023 ci sarà il secondo rinnovo, questo verrà automaticamente effettuato a meno che il Parlamento, il nuovo Parlamento, entro il 2 novembre non annulli appunto questo rinnovo. Quindi dobbiamo aspettare appunto il 2 novembre per vedere cosa succede. Purtroppo tutto fa pensare che verrà rinnovato, staremo a vedere.